chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Rosy, vabbè che siamo a San Valentino e lei mangia cioccolata, capito? Perché c'ho carenza d'affetto, perché c'ho carenza d'affetto, capisci? Ma che carenza? Ma molta carenza. Tanta carenza, guarda. Che cosa mi hai regalato oggi per San Valentino, amore? Lo scoprirai. E come sei avanti, come sei furbo. A San Valentino fai una bella cosa. Ecco. Diventa frocio. No, no, allora, perché nella puntata di oggi avremo un sacco di cose, no, di cui parlare, perché sta arrivando il pulmine di Stranamore. Sento Stranamore, perché sai, tra Family Day, Svegliati Italia, omosessualità, matrice, cioè proprio un periodo, essere omosessuali contro natura, contro natura, tutta questa roba qua. Infatti noi daremo il nostro contributo, cioè è vero che l'omosessualità in natura non esiste, visto che ci occupiamo del mondo dalla prospettiva del cane e degli altri animali. Vedremo, state con noi. Infatti state proprio con noi, perché questa è una bella puntatona. Allora partiamo però dalle 11 cose che forse fai ma che ai cani non piacciono. Ti ricordi che ogni giorno diamo un punto, certo, preciso, e tu fai il parallelo in questo caso con noi umani, esatto, partendo dai cani, con noi, esatto, umani. Allora il primo punto era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Quindi, cioè, è una cosa che fai ma che al cane, il cane non gradisce, perché, esatto, è più attento al linguaggio del corpo. Il secondo punto è abbracciarlo forte, che non va fatto. Quello che faccio sempre io con i miei, ma i miei sono molto felici, amore. Sì, si vede proprio. Mi faccio una foto, la mandiamo. No, allora, che tollerano. Anche tu tolleri? Io tollero, sì. Non tollero, io non tollero. Allora, il terzo punto è fargli pat pat sulla testa, esatto, che è orrendo anche per... Che dà parecchio fastidio ai cani in genere. Anche alle persone. Meglio, perché... accarezzarli sui fianchi, sulle guance, abbiamo detto. O sotto... Andatevi a riascoltare le puntate sul podcast, no? Se volete l'approfondimento su ognuno di questi punti. Quarto punto, guardarlo fisso negli occhi. Esatto, che è una... aumenta l'intensità di interazione, non è sempre sbagliato, no? Per cui ci si guarda da innamorati, come oggi, no? A San Valentino, guardarsi negli occhi va bene, però se si è arrabbiati, ci si guarda negli occhi, si amplifica, no, l'effetto, e così vale per ogni altra emozione. Quinto punto, vivere senza regole. Esatto, perché è importante invece una certa struttura, delle routine, soprattutto delle regole, perché altrimenti ogni volta che c'è qualcosa che non va, si va a finire a scontrarsi e quindi non va bene. Abbiamo detto l'altra volta, si creano le regole con calma e coerenza. Che nei poi cani, ricordo sempre tutte queste cani, cose. I bambini. Esatto, persone, tutte queste cose valgono anche nel rapporto genitore-figlio, fra fratelli, fra amici, fra innamorati. E il sesto punto, quello che svilupperemo meglio oggi, è obbligarlo a interagire con cani che non gli piacciono. Che non gli piacciono. Che tra l'altro per San Valentino è particolarmente indicato questo argomento. Eh sì, perché vedi, prima parlavamo per esempio di omosessualità, quando una persona è un uomo e si innamora di un altro uomo, una donna si innamora di un'altra donna, e quello si innamora, cioè non è una questione legata soltanto alla sessualità. No, ma anche... quello perde la testa, quindi tu obbligandolo a non fare questa cosa, ma a convivere, interagire con individui del sesso opposto, gli fa una forzatura che non va bene. Dobbiamo imparare molto dal mondo degli animali, e più tardi ci torneremo su questo punto. Difatti l'articolo dice che bisognerebbe dare al cane un incoraggiamento positivo, perché lo spinga a uscire dalla sua cuccia e conoscere altri cani. Questo, cioè, è questo una cosa positiva, esatto, però bisogna fare sempre attenzione ai famosi segnali che tu chiami segnali calmanti, che il non cane soltanto ci dà. Calmanti, okay. Non soltanto i segnali calmanti, che sono leccarsi il muso, girare la testa, sbattere gli occhi, scrollarsi, sbadigliare, sono segnali indicanti a volte un certo disagio da parte del cane, ma poi ci sono, possono diventare uno dietro l'altro anche segnali che ci permettono di individuare stress, frustrazione, disagio forte. Anche perché anche gli animali hanno le loro simpatie e antipatie. Io mi ricordo quando avevo tre cagnolini, certo, sì. La prima era una femmina, poi è arrivato un maschietto e si adoravano, poi è arrivato il terzo maschietto e c'era una dinamica strana, la femmina non lo sopportava, giocavano solamente due maschi, quindi avevano le loro simpatie. Eh sì, certo, cioè, ma esattamente come tra persone, insomma. Quindi tra insomma esseri umani. Non bisogna obbligare i cani a interagire con i cani che non gli piacciono, perché sennò poi dopo lui dà dei segnali che se noi non leggiamo, esatto, il cane ovviamente a quel punto si può rigirare. E allora lo traduciamo in pratica un po' questa cosa. Sì. Io ho il cucciolo, come sappiamo diversi cuccioli sono attratti dagli altri cani, e allora il mio cucciolo tira per andare dall'altro cane, ma l'altro cane magari non ha voglia. Allora io devo, ecco perché è importante secondo me che si facciano dei corsi pre-adozione, perché io prima di adottare un cane devo sapere capire come i cani comunicano. Io devo capire se quell'altro cane in quel momento non c'ha voglia e non devo obbligarlo soltanto perché il mio è un cucciolo ad andare vicino, perché quell'altro potrebbe essere ammalato, avere dolore, non essere il momento. E poi che cosa succede? Lo faccio avvicinare, i cuccioli sai che sono un po'... Sì, sono irruenti. Sono irruenti e allora alla fine succede magari che c'è uno scontro, no? Quello più grande decide di educare il cucciolo con una ringhiata e lo spiattella per terra e noi magari ci preoccupiamo. Ma altre interazioni forzate sono, per esempio, per forza far stare il cane nell'area cani, o un sovraffollamento nell'area cani, o un sovraffollamento in casa. Vogliamo ricordare quelle persone? Sì, abbiamo, esatto, intervistato una volta una ricercatrice che aveva fatto quello studio sulle persone che si riempiono la casa di animali, ti ricordi? Pensando di portarli via in una situazione disagiata, ma in realtà li mettono in un'altra situazione disagiata. Disagiata o forse addirittura peggiore. Quindi dobbiamo stare attenti, perché sovraffollamento, cioè troppi cani all'interno della stessa area, è un'interazione, può essere un'interazione forzata. Ecco, a questo proposito, siccome ultimamente stiamo cercando di aiutare un caso particolare di una signora che ha voluto salvare un cagnolino da 6 anni di canile, quindi lei ha avuto una spinta amorevole in questo caso, però non ha fatto attenzione a capire, e quelli del canile non sono stati abbastanza pronti o preparati probabilmente a dirle in che condizioni poteva stare questo cane, perché è stato preso e poi ha iniziato a mordere, cosa che in canile non faceva mai. Ok, però attenzione, perché a volte i cani in canile non danno nessuna visaglia di questo tipo, e quindi anche per quanto bravi possano essere i ragazzi che sono in canile, il cane non ti dà la possibilità di prevedere questo. Quindi è importante nel momento dell'adozione fare una sorta di consulenza zoantropologica, cioè far capire questa roba qua. Altre convivenze forzate sono: nasce un bambino. Sì. Altre convivenze forzate sono: faccio una nuova adozione. Insomma, sono tutti momenti particolarmente delicati. Infatti, poi però parleremo faremo una puntata speciale su questo, come fare un'adozione consapevole sia da parte di chi adotta che da parte di chi deve dare in adozione, certo, perché è una cosa molto importante. Adesso queste note romanticissime. Sì, poi tra l'altro l'adozione significa anche quando tu decidi di stare con qualcuno, anche quella è una sorta di adozione. Esatto, io mi sono fatta adottare da te, Vaira. Sì, certo. Mentre ci sentiamo, certo, il traffico, poi cominciamo un po'. Che barba, ecco. Che noia. Con questo... le mille sfaccettature di un rapporto. Esatto. Ascoltate il traffico. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci. Bonjour. Qui. Allora, adesso io sono felicissima di introdurre una persona che io, Angelo, conosciamo molto bene, che vi potrà sembrare che non c'entra niente invece col mondo degli animali. Come facciamo sempre, perché tutto è collegato. Tutto è collegato. E sto parlando di Paola Neglia, che è una consulente e insegnante di Feng Shui. Adesso lei ci spiegherà che cos'è questa disciplina. E ha il master nell'oroscopo cinese. Astrologia cinese. Nell'astrologia cinese e nell'astrologia Bazi. Uh-huh. E Paola, sei in linea? Sì, ciao. Ciao Paola, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sempre affascinata da tutte queste cose, no? Dall'astrologia, dal Feng Shui, tutte cose che ci possono migliorare la vita. Si parla tanto di energia nel Feng Shui. La cosa che mi ha colpito è che gli animali sembra che abbiano una predisposizione naturale a capire quali sono gli angoli di una casa, di un posto dove c'è l'energia giusta piuttosto che non. Questo giusto? È quello che batte il mio scetticismo, no? Io, avendo una formazione scientifica, sono sempre molto attento, no, quando si tratta di astrologia, agopuntura, feng shui, eccetera. Però allo stesso tempo ho una vocazione molto forte verso il mondo della spiritualità, e per cui mi incuriosisco e sono molto aperto a queste cose. Devo dire che il fatto che i cani siano così sensibili ai cambiamenti in casa diventano un elemento predittivo di quello che stai facendo è qualcosa che batte lo scetticismo. Quindi grazie Paola di questo intervento con noi. Però possiamo chiederti che cosa è il Feng Shui? Cioè, se una persona ci sta ascoltando e dice: ma stanno parlando di Feng Shui, ma che cos'è il Feng Shui? Che cos'è? Allora, il Feng Shui, per me, il Feng Shui in realtà è un modo di ritrovare il proprio benessere attraverso la sistemazione degli ambienti. Ecco. Cioè, attraverso la propria casa si può vedere, con la lettura della casa, chi conosce il codice di cosa ci dice la casa, non c'è un posto più stretto a noi come dove abitiamo, noi mettiamo tutto quello che siamo dove viviamo, e allora attraverso la lettura della casa io posso dire come va la tua vita o dove va la tua vita. Vedi. E facendo delle trasformazioni, delle piccole modifiche in casa, sostenere i tuoi processi di cambiamento. Vedi, che cosa però rende, perché quello che stai dicendo è una cosa che tutti quanti noi sperimentiamo, certo. No? Quando noi entriamo in un ambiente diciamo che bello, che brutto, piuttosto che una scrivania sgombra ti aiuta a pensare, potrebbe aiutarti a pensare, sì. No? Però questo potrebbe rientrare nei parametri anche dell'architettura. Che cosa che differenzia l'architettura di interni, cioè quella cosa che diventa bella a vedersi, dove uno potrebbe star bene, rispetto al Feng Shui, che mi sembra qualcosa di ancora più profondo. Come sei brava a fare domande, Vaira. Allora, il Feng Shui tiene sempre conto della persona e anche l'architettura lavora col gusto della persona, questo va molto bene. Però è vero che i posti vengono scelti, la persona sceglie il posto d'accordo a come si sente, come entra il feeling con quell'ambiente. C'è il tipico esempio: andare a comprare casa, se tu vai con gli amici e vai con un architetto, l'architetto ti farà vedere tutti i pregi del posto, come materiale, come è fatto il pavimento, come è rifinito, sì. Ma la persona dice no, questo non mi piace. Non mi piace. Certo, perché quando vai a cercare una casa da scegliere è la casa che ti chiama, il posto, sì. Che ti fa sentire. È la risonanza che c'è tra la persona e la casa, ecco. E normalmente non è quella fatta meglio, ma è quella che entra in risonanza con te, quella che racconta la tua storia, perché dentro la casa, il suo davanti, il suo dietro, come è fatta, c'è una parte di noi, è il nostro futuro, il nostro passato, ogni organo vitale, ogni cosa vissuta. Allora noi scegliamo sempre la casa che l'architetto avrebbe bocciato. Fantasia. Ma è quella che a noi piace, quella a cui noi entriamo in risonanza. Senti. Soprattutto con un determinato momento di vita, perché poi noi cambiamo, la casa non va bene per sempre, perché noi abbiamo momenti di evoluzione, a volte ci rimane diversi, stretta. Diversi. Solo che questo mi preoccupa, perché se una persona ha scelto, si è comprato la casa, no? E adesso poi affronta un cambiamento e sembra come se le cose che ha attorno non funzionano più. Bravo. Bravo, molte volte non si fanno anche dei percorsi di crescita personale e sembra che non stanno funzionando, è perché se noi non facciamo anche in casa questi cambiamenti è come se avessimo un freno tirato. Vedi? Allora capita spesso le persone che hanno più difficoltà a stare bene in una casa è quando ereditano una casa, perché quella casa non è stata fatta da loro, dai loro bisogni. A meno che uno la eredita e poi la fa, la sistema e se la ricuce addosso secondo i propri bisogni. Infatti. Senti. E poi c'è anche da pensare che c'è un momento della vita che sei solo, un momento che hai famiglia, hai figli, però hai un altro momento che ritorni ad essere solo o essere solo in due. Non può essere sempre la stessa casa. Oppure comunque, cioè, la casa può essere sempre la stessa, ma tu dentro devi modificare a seconda dei cambiamenti della tua vita. Sì, okay. Assolutamente. Senti, ma c'è una cosa che voglio chiederti. So che il Feng Shui nasce in Cina, è corretto? È corretto. Sì. Sì, ecco, sì. E in Cina io conosco un pochino la filosofia del Dao, sì. E queste, quindi lo yin e lo yang, questa cosa delle energie che fluiscono, è questo che ha a che vedere col Feng Shui? Il Feng Shui che pratico io, sì, ce ne sono tanti stili di Feng Shui. Il Feng Shui che faccio io è taoista principalmente. Ah, vedi. Pertanto noi teniamo conto di tutti i cicli naturali, la natura come si muove, i cicli della stagione, i cicli della persona, e questo è molto spiegabile con la natura, è molto scientifico, cioè ogni cambiamento che noi facciamo è facile ritrovarlo che la natura lo stia facendo, pertanto è molto naturale ed è molto facile seguirlo perché sono spiegazioni talmente semplici che va benissimo così. Ma e quindi in questo caso, allora, quando tu vai a fare la tua consulenza di Feng Shui a casa delle persone, quando ci sono degli animali come un cane o un gatto, tu hai come se avessi, come si dice, un collaboratore. Allora, un collaboratore possiamo averlo tutti quando stiamo scegliendo casa, perché se tu porti un cane con te e il posto non è buono, c'è qualcosa che non va, il cane non ci entra volentieri. Fantastico. E vedi. Questo potrebbe essere una guida per dire questa casa forse c'è qualcosa che non va. Lo stesso i bambini piccoli. I bambini piccoli hanno ancora una sensibilità non condizionata, che sentono subito qualcosa non va e non vogliono entrare. Vedi, io mi ricordo ancora quando Lucky, il mio vecchio cane, che adesso purtroppo non c'è più, ma è stato il mio maestro per 16 anni, ha scelto lui la macchina che io dovevo comprare. Perché questa, io... quest'ultima che c'hai? Sì. Bella scelta che ha fatto Lucky. Ma che cosa, non ho capito. Come ti permetti? Come ti permetti? Questa è una signora macchina, questa qua. È durata tanto, è sicura. Mi ha accompagnato in giro, su e giù. Per... Ma che cade a pezzi? Perché certo, avrà una certa età, oramai ha quasi 300.000 km. Comunque non divaghiamo, ritorniamo. No, però Lucky, io mi ricordo che io aprivo il bagagliaio delle auto e vedevo qual era la sua reazione. In questa macchina qui, non soltanto lui è saltato su, ma appena è saltato su si è sdraiato, cosa che lui non faceva quasi mai in macchina. Ha detto bene, e sembrava molto a suo agio. Ha detto: questa è la macchina che voglio. Ecco Paola, evito di dirti cosa ho fatto io quando sono salita su quella macchina la prima volta. Non si è sdraiata. No. Non si è sdraiata come, no, io invece volevo scappare. Magari avrei anche voluto. Beh, sappi che anche casa mia è stata provata dal mio cane. Vedi? Perché quando io vivo nell'Oltre Po Pavese, sono uscita da Milano con una nebbia pazzesca. Abbiamo superato il Po, è uscito un sole meraviglioso, abbiamo visto le colline e il mio cane, che non si alza mai dal sedile, si è alzato e ha iniziato a sbattere la coda. Ha detto: questo posto Vedi? Ti piace. Senti, però Paola mi ha raccontato, allora, in parte una cosa che non sapevo dei gatti, cioè mentre lei mi spiegava, i cani in casa scelgono, adesso poi tu lo spiegherai meglio, scelgono le posizioni più sicure, tutto quanto, e quindi tu sai che là dove sta un cane è il posto migliore dove stare anche per noi uomini, giusto? Sì, i cani hanno, come noi, no? Segue ancora questo archetipo animale, che sanno d'istinto cosa è meglio per ognuno. Pertanto non vedremo mai un cane entrare in una cuccia e sdraiarsi lasciando la coda fuori, perché è in una posizione di svantaggio. Il cane sempre girerà, farà mille giri, però si mette in posizione che ha il viso verso fuori e la parte più vulnerabile del corpo è protetta. Dal muro, sì. Se noi facciamo, teniamo conto di questo, noi tutti sapremo come sistemare il nostro letto nella nostra camera, perché non abbiamo bisogno dell'orientamento, abbiamo bisogno di essere in una situazione protetta, in una situazione che la nostra schiena, che è così vulnerabile, dove noi non abbiamo occhi, sia in una posizione sicura. E abbiamo la possibilità che con un piccolo sguardo, anche non aprendo completamente gli occhi, teniamo sotto controllo la porta. I cani, in qualunque posto che arrivano, studiano il posto e si mettono in una posizione a dormire che possano sempre tenere sotto controllo la porta, il punto d'ingresso, perché è il punto più vulnerabile. Anche se tu accarezzi un cane, mi fa morire, perché il cane arriva di muso e subito si gira. E tu dici: perché mi dai sempre il sedere? E sembra che ti facciano quasi un dispetto. No, perché loro si sentono sicuri con noi, noi proteggiamo la loro schiena e loro si girano in modo da poter tenere in controllo tutto il resto. Fantastico. Mentre invece lei mi diceva che il gatto è l'esatto contrario, cioè il gatto va a posizionarsi... Nei nodi. Nei nodi di Hartmann. Nei nodi di Hartmann o nei nodi di Curry, dove sono punti energetici troppo forti per noi per passare tante ore. Allora, se noi avessimo una scrivania al nostro punto di lavoro sopra un nodo, noi ci scarichiamo, iniziamo a avere dolori, iniziamo a star male, o anche se mettiamo degli apparecchi elettrici, questi tendono a rompersi. Ecco. Il gatto più selvaggio, perché c'è anche da distinguere anche tra cani e gatti, quelli più abituati a casa magari perdono un po' questa istintività, però il gatto sempre si mette in punti dove c'è questa concentrazione di energia, perché loro sanno gestirla, sanno cambiarla. È per quello che il gatto, quando noi arriviamo a casa e carichiamo un gatto, lo mettiamo addosso, ci rilassiamo, perché loro si prendono tutto questo carico di energia, le nostre tensioni, sì, e la trasformano. Noi ci rilassiamo, loro stanno da Dio. Ah, ecco, vedi, mazza, sono veramente magici. Non è che poi stanno male. No, certo, sono magici. Senti, ma è capitato anche che un nostro amico, ma tu mi dicevi anche altri episodi, dove praticamente quando tu sei andata a fare la consulenza di Feng Shui in questa casa è migliorata anche la vita del cane, che magari aveva dei disagi, non si capiva perché. È molto interessante, perché il Feng Shui spesso si pensa sia una condizione psicologica, no? Dice: tu me l'hai raccontato, deve funzionare così, se ci credo funziona, se no no. Le case dove io ho fatto consulenze, dove ci sono i cani sono i primi a sentire i cambiamenti e a loro non gliel'ho raccontata. Certo, non è che il cane ha cognizione di che cos'è il Feng Shui. No, proprio zero. Esatto. E in questo caso in particolare che dicevi tu, avevamo un problema in cucina di ambientazione, di armonizzazione dei colori principalmente, degli elementi, dove in questo spazio si litigava molto e il cane non c'entrava proprio. Loro non sono mai riusciti a far mangiare il cane in cucina e anche se gli mettevi la cosa più buona hanno deciso che doveva mangiare in sala perché lui in cucina proprio non ci andava. Dopo che ho dato i consigli di come armonizzare questo ambiente è diventato il posto preferito del cane. Vedi. È entrato naturalmente e il suo cibo adesso lo mangia e hanno prevalentemente cambiato i colori addirittura. Solo in realtà neanche i colori perché era troppo pieno, abbiamo messo un tappeto di un colore specifico. Ecco, figurati, ecco, per tutti semplicissimo. Esatto. Ma prima c'era un altro tappeto di un altro colore? Non c'era proprio, c'era nessun tappeto e la soluzione più semplice era introdurre un elemento un po' banale, però che ha cambiato la vita di loro, che non litigano più. E il cane, che oltre a quello è iniziato a star meglio. Ecco, per tutti quelli che pensano che fare feng shui dicono ma chissà, poi mi dici di cambiare casa e buttare giù un muro, di stravolgere quello, non è necessariamente così. Senti, ma Paola, un tappetino esatto, a volte basta un tappetino. Intanto io ti ringrazio tanto. Chi volesse avere la tua consulenza di feng shui, mi sei arrotata la lingua, dove ti può trovare? Allora, io ho un sito che si chiama livingnaturally.it. livingnaturally.it. Grazie Paola, noi ci vediamo poi presto, un grande abbraccio. Grazie Paola Neglia. Grazie. A fra poco. Ciao. A presto, ciao. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Io adoro questa. È la mia suoneria quando chiami tu, amore, lo sai? Scusi, vuol ballare con me? Sai di chi era questa? Beh sì, certo, è tuo papà, no? Ah, ecco, appunto. Beh, certo. No, però pensavo questa cosa è il tempo delle pere. Ma dai, ma finisce. Ma perché devi rovinare? Ma scusa, ma io e Peter di là scherziamo su questa cosa perché è il tempo delle pere. Ma ormai non ci siete, dobbiamo fargli ogni cosa. Ma voi uomini veramente, ma fate fatica a essere romantici, però non che è pizza, vero, amore, che noia, mi è che venuto barba, in mente che quando barba, ero che liceale invitavo le ragazzine barba, a ballare con questa barba, musica. Che noia, che barba, che barba, che noia. Ah, bravo, bravo. E pomiciavi le toccavi le chiappe. Perché oggi siamo così? Perché è San Valentino, meno male, cari nostri amici, e tu mi devi fare ancora il regalo. Allora, prima, scusate, voglio ricordare che non abbiamo ancora ricordato fino adesso tutti i nostri miliardi di ascoltatori. Se ci vogliono scrivere, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Noi risponderemo il prima possibile a tutti quanti, cercheremo di farvi partecipare. Se volete invece riascoltare le vecchie puntate, andate sui podcast del sito di radio24.it e quindi vi potete beccare tutto quello che vi pare. Come non si può parlare di famiglia, di amore, di esatto, Family Day? È San Valentino, siamo proprio in piena discussione, no? Il Family Day, Svegliati Italia, Stepchild Adoption, no? Queste cose esatto. Che allora, probabilmente qualcuno si starà chiedendo, ma nel caso degli animali, che ne pensano, no? Hai mai sentito dire l'omosessualità in natura non esiste? Beh, questa è una è nostra... contro natura. Indovina chi lo dice? Un sacco di gente. Mio cugino. Ha detto mio cugino che una volta si è schiantato con la moto. Sembra anche Tikiti. Sembra anche Tikiti dei fichi d'India. Si è tolto il casco, si è aperta la testa. Ma perché ti fa tanto ridere questa roba? Guarda come ride, voi non lo vedete il dottor Baer. Ma lui c'ha un sorriso da una parte della cuffia all'altra. Ma come? Ma questa è una canzone culto, no? Sì, vabbè, io le storie adoro tese che Elio e le storie tese, infatti. E saluto anche i fichi d'India. Ciao Elio e ciao storie tese. Max e Bruno, gli do un grande bacio. Allora, qui c'è più di un cugino che ha detto questa cazzata. Vabbè, ce ne sono tanti. Vabbè, perché uno immagina che in natura non sia così. così, e invece non è vero. Ho capito, ma oltre che immaginare, se poi ricopri delle cariche importanti, devi far portavoce, dovresti essere informato, per esempio, no? Sì, allora, noi quindi non siamo qui per discutere se politicamente o meno è giusta una legge piuttosto che un'altra, che può rientrare nella nostra opinione personale, magari poi la diciamo anche, però possiamo portare il nostro contributo in quanto amanti del mondo animale, magari anche qualcosina in più la sappiamo. Allora, quantomeno, se una persona deve rifarsi a questa logica, no? In natura esiste o non esiste l'omosessualità, deve sapere di cosa parla. Allora, in natura, cara Rosita, l'omosessualità esiste? Yes. Esiste. Più di 1500 casi, però qui alcuni articoli ne hanno sintetizzati. No, non casi, scusami. Cioè casi, specie animali. Bravissima, perché è diverso. Non è che hanno visto 1500 coppie di animali omosessuali così random, no? Sta sul pezzo, Vaira, eh? No, hanno studiato 1500 specie di animali differenti in cui c'è omosessualità, ovvero corteggiamento, unione sessuale, e anche omogenitorialità, cioè due membri dello stesso sesso che si prendono cura della prole. Ecco, hai visto? Imparate, gente, imparate. Allora, partiamo da... qui abbiamo trovato un articolo che parla di 10 casi di animali omosessuali in natura, di quelli più... che la praticano, fra l'altro, senza correre il rischio di essere giudicati dai loro simili, grazie a Dio per loro. Ecco, esatto. Loro hanno più... è più facile dal loro punto di vista. Allora, al decimo posto ci sono i montoni, i famosi montoni domestici. Cioè, addirittura l'8% dei montoni preferiscono un partner dello stesso sesso. Al nono posto ci sono albatri della Aysan, che fra l'altro vivono a Oahu, nelle Hawaii. Hanno notato che il 60% degli uccelli presenti era di sesso femminile e che il 31% di tutte le coppie di albatri erano lesbiche. Ecco. Questo è al nono posto. All'ottavo posto ci sono i tursiopi. Ovvero il delfino. Esatto, che si dice che sia uno degli animali più intelligenti, forse anche dell'uomo, assieme all'uomo e ai primati. Io ho abbastanza certezza su questo. Hai abbastanza certezza? Sì, sì. Beh, allora, se tu anatomicamente vai a vedere come è fatto il cervello di un delfino e lo paragoni col cervello umano, tu dici, vabbè, ci battono 100 volte uno. Ecco, e adesso quindi ci occuperemo, e proprio qui, in questo cervello di delfino, è stata riscontrata una grande intelligenza, pensate forse superiore a quella umana. Aspetta, già che ci sei, Angela, fammi sto favore, leggi quest'ultima frase, la struttura. La struttura sociale dei delfini è piuttosto diversificata e vi sono stati identificati numerosi legami omosessuali. Salutiamo gli Angela, Alberto e Piero, che sono dei miei miti, seguiti fin da quando ero bambino. Infatti, poi al settimo posto c'è il famoso mitico bonobo, che è stato citato anche nel mio libro. Bonobo, grazie a Dio, figurati, gay. Ormai è quasi patrimonio comune, cioè ormai sanno che bonobo. Cioè, allora, come risolve i conflitti il bonobo, Rosita? Facendo sesso, scopando. Ciulando. Cioè, questi, quindi maschi, femmine, grandi, piccoli, insomma, volta che hanno un problema, invece di litigare, scopano. Fanno sesso. Ma fra loro, fra maschi, fra femmine, fra maschi e femmine, evidente, cioè, comportamento omosessuale. Vorrei ricordare anche che queste comunità seguono ovviamente un modello matriarcale, quindi favorito da tendenze, perché noi donne siamo un po' più avanti, rassegnati. Ovviamente per quello. Quindi, certo. Cioè, dopo spieghiamo... Visto che è permesso loro questo, quindi significa no. che... No, nel senso, ovviamente, se le cose funzionano è perché c'è dietro il cervello di una donna. Certo. Se al Parlamento ci fossero il 90% delle donne, il 5% di uomini... No, però su questo sono d'accordo. Se ci fossero più donne e uomini, il mondo sicuramente andrebbe meglio. L'intelligenza femminile al governo farebbe delle grandi cose. Si dice che se il mondo si salverà per mano di una donna. Lo dice un amico mio, comunque. Esatto. So che le donne cosa dicono? Ma perché andarci a fare tutto? Ma infatti, abbiamo cose più importanti da fare, abbiamo da nutrire le nuove generazioni, abbiamo da occuparci di cose ben più importanti. Ma infatti, purtroppo. Al sesto posto c'è Rupicola peruvianus. La Rupica peruvianus è un uccello nazionale del Perù, e vive nelle foreste amazzoniche della Colombia. Dunque, fino al 40% dei maschi di questa specie ha rapporti omosessuali. A differenza degli albatri discussi in precedenza, in questo caso il sesso omosessuale è una prerogativa strettamente maschile. Quindi in questo caso sono i maschi. Al quinto posto ci abbiamo... Al quinto posto è una roba strana, perché se uno si immagina il re della foresta, come diventa virile, che ha tutte le sue femmine, le leonesse, no, a disposizione, eccetera, eccetera. Bene, invece è stato osservato nei leoni africani il comportamento omosessuale. Capisci? Perché io anche due uomini che si amano sono virili per me, non è che necessariamente devono avere le piume di struzzo, essere un po' affemminati. Poi. L'unica cosa di cui ho il dubbio, qui dovrei un attimino approfondire, mm-hmm. è che è stato osservato il comportamento di monta, no, tra maschi, così mm-hmm. come si osserva tra cani. Però tra cani spesso questo non è un comportamento ad orientamento sessuale, ma è più dato per dominanza, per stress, controllo dell'altro, oppure come fanno i bonobo, invece di aggredire utilizzo la sessualità. È una cosa sulla quale nel caso dei leoni non sono così informato. Bene, allora poi il quarto posto: cigni neri e pinguini. Il comportamento omosessuale è stato documentato tra cigni neri australiani selvatici che talvolta formano gruppi di 3 individui. Mm-hmm. Cioè qui c'è pure una mini mucchiatina. Sì. 2 maschi e una femmina. E vai come sono avanti gli animali. No, perché a me viene da ridere. Io, se qualcuno ascolterà la nostra trasmissione, dirà: cioè, adesso smettetela di dire che non c'è in natura questa roba qua. Che è contro natura, perché in natura c'è tutto nel rispetto di tutto. No, ma poi tra l'altro noi adesso abbiamo tirato fuori 10... questa classifica di 10 animali, però di 10 specie animali, però vi ricordiamo che in realtà in etologia è stato osservato il comportamento omosessuale in 1500 specie di animali differenti. Infatti. E al terzo posto? Al terzo posto ci sono i gabbiani occidentali, che assomigliano agli alberi di Laysan, ma sono in realtà più strettamente legati alle pulcinelle di mare. Tra questi uccelli non è usuale vedere delle coppie formate da 2 femmine. Sono sempre le femmine quelle più ardite. Dopodiché passiamo alle giraffe. Uh-huh. Prima di accoppiarsi con una femmina, a volte si dedicano a incontri con individui dello stesso sesso per anche creare delle alleanze di breve termine. Poi ci sono le libellule. Al primo posto. Anche fra gli insetti, ma anche tra le lucertole. Adesso aggiungo qualche specie di animale. Un'altra cosa che mi premeva dire, che insomma una riflessione, no, è riguardante il cosiddetto matrimonio, perché la preoccupazione da parte di molti è ricreare che il matrimonio insomma non sia una cosa tra gay, non è possibile, no? Mm-hmm. Allora, posso che abbiamo degli amici omosessuali che sono felicissimi, io sono contento per loro e va bene così, perché ognuno deve essere libero di vivere i propri sentimenti. Però una piccola riflessione che magari dopo riprendiamo è la distinzione che c'è tra matrimonio, che è qualcosa che ha a che vedere con la donna femmina in grado di procreare, perché originariamente questo è il significato di matrimonio, cioè è un affare da donna. Il matrimonio sancisce il momento in cui una donna ha scelto un partner per fare figli, ed è un momento molto importante. Quindi questo non significa che non ci debba essere un'unione civile tra omosessuali. No, assolutamente. La cosa bisogna che dovrebbe trovargli un altro nome. Sì, allora io ho trovato un articolo che mi è piaciuto molto di un po' di tempo fa, però lo trovo comunque attualissimo, scritto da Maurizio Maggiani, che fa la differenza fra matrimonio e patrimonio, perché uh-huh. spesso e volentieri in Italia si usano delle parole, ma in realtà nessuno va a vedere qual è il vero significato di queste parole, e quindi voglio dire, noi siamo andati a cercarle per voi, almeno anche da creare delle discussioni interessanti, sapendo l'origine e il significato della parola stessa. Allora, però ti interrompo, ti riprendiamo questa cosa fra poco con l'aiuto dei nostri amici animali. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Questo sempre per ricordare che oggi è San Valentino. San Valentino, auguri a tutti gli innamorati. E a quelli che si devono innamorare, e a quelli che sono stati innamorati ritorneranno a essere. Poca cioccolata, tanto amore. Perché sai che molti dicono: è soltanto una cosa commerciale. Allora, cogliete l'occasione. E tanti abbracci, facciamo così. Baci e abbracci. Cogliete l'occasione non tanto di regalarvi cioccolata, che non è così indispensabile, quanto invece di passare almeno una di giornata. Di gesti. Dedicata a voi. Allora, stavamo parlando della differenza fra matrimonio e patrimonio. Allora, la parola matrimonio è una parola. Ma perdonami se io ti sto interrompendo, io lo so, però sai che mi è venuto un gancio che per me è molto significativo rispetto a San Valentino, innamorarsi. Eccetera, vuoi chiedermi eccetera. Di sposarti? No. Sicuramente non in diretta, no? Beh, che ne sai, magari un giorno. Ti ho spiazzato, amore, ti spiazzo sempre. Sempre. Ti spiazzo in due. No, a proposito di gesti, A proposito di gesti, gli animali ci insegnano una roba, no? Mm-hmm. Noi dobbiamo imparare molto da loro, parlano col corpo. Sì. Allora, un consiglio, un esercizio che io e te abbiamo fatto una volta, non so se ti ricordi, che io consiglio di fare oggi alle coppie per esplorarsi, mm-hmm. è di esprimere il proprio affetto, i propri sentimenti, via dicendo, in silenzio. Cioè, state in casa, provate a sperimentare che cosa significa stare lì mezz'ora, un'ora, ore o un pomeriggio o addirittura una giornata senza parlare, perché le parole spesso diventano una sorta di cappa che oscura quello che passa davvero. Gli animali invece ci insegnano, e guarda, basta che andiate su Google e mettere wildlife, love, animals, queste cose qui, vengono fuori un sacco di foto, immagini interessanti di come gli animali si dimostrano amore. Qualcosa che gli innamorati, è un linguaggio che gli innamorati hanno, ma di solito si tende a dimenticare. Ma fantastica questa cosa, e vi giuro, è vero, noi l'abbiamo provata, devo dire che è stata molto emozionante, perché abbiamo detto proviamo a non parlare per mezz'ora, a fare una giornata normale in casa, quindi ma si cucinava, si mangiava, soprattutto la sfera affettiva, cioè non è tanto passami il sale fatto con i gesti, voglio dire ti amo alla persona che mi è a fianco. Come faccio a dirglielo senza parole? Provate voglio a esprimere affetto, voglio esprimere, farti capire che sei protetta, che mi prendo cura di te, eccetera. Come faccio a farlo senza usare le parole? Allora, invitiamo tutti gli ascoltatori a provare a fare oggi, nella giornata di San Valentino, questo esperimento. È di un vedere. Recupero, esatto. Ecco, poi l'amore magari attraverso quello che ci insegnano gli animali. Esatto, provare a fare un'oretta, mezz'ora, decidete voi il tempo della vostra giornata, del giorno degli innamorati, in silenzio. E poi se avete sentito, percepito qualcosa di particolare, scriveteci, che a noi fa piacere, magari un giorno leggiamo anche le vostre mail. Se sono felice, @radio24.it. Ma passiamo a quello che ci insegnano gli animali, o comunque delle riflessioni, no? Partendo dall'ecologia anche umana, su matrimonio e patrimonio. Sì, perché in realtà stavamo dicendo, non si conoscono bene i significati delle parole che usiamo, no? La parola matrimonio è una parola latina che sta per dovere, parte, compito della madre. Quindi letteralmente contrario a un matrimonio sta per sancire il dovere da parte, il compito di una donna di essere madre, quindi procreare. Patrimonio invece è la parte, il compito, il dovere del padre. Quindi sappiamo tutti cosa significa patrimonio, no? Significa accumulo, possesso di beni, materiali. Quindi il compito il compito del padre è provvedere al sostentamento, deve dare una protezione in termini accumulare materiali. Beni. Accumulare beni, brava. Quello della madre invece è di generare eredi. Quindi Quindi matrimonio è l'affare che coinvolge la mamma, la madre, riguarda la maternità. Ecco perché è sbagliato sia quando si vuole appioppare ad un'unione di omosessuale la parola matrimonio, perché non è matrimonio. Unione, difatti si parla di unione civile. È un'unione civile, legittima, che deve essere protetta. Anche questa bisogna trovargli forse un altro nome. Ecco, a me non piace neanche quella roba di genitore 1, genitore 2, genitore 3. No, orrenda, perché si spersonalizza. No, però qui in questo articolo di Maurizio Maggiani, di un po' di tempo fa, mi ha colpito il fatto che lui dice, che lui prova a dire, se provate ad andare indietro nelle generazioni passate, scoprirete facilmente come non ci sia relazione diretta tra amore e matrimonio all'epoca, perché era una situazione di, come si dice, non c'era l'amore, perché spesso fra l'altro destabilizza, no? Il matrimonio in realtà all'epoca non vuole incertezze, quindi voleva stabilità, voleva certezza, anche il patrimonio lo vuole. Diciamo che l'amore a volte è un po' più un elemento un po' più variabile, impermanente rispetto ai beni, no? Sì, infatti. Però c'è da dire anche un'altra cosa, se noi andiamo a sondare invece quello che succedeva a livello tribale, no? Nelle tribù, piuttosto che ancora prima, quando eravamo cacciatori e raccoglitori, no? Ci sono dei rituali che sanciscono sempre quel momento lì. L'unione. Sì, soprattutto quando noi eravamo cacciatori e raccoglitori non avevamo proprietà, non avevamo accumulo di beni, se non che fosse magari la lancia o non so che cosa, capito? Però anche in quel momento lì noi avevamo bisogno di unione, di una certa stabilità, di sancire il momento in cui la donna diventava madre e via dicendo. Ma sì, ma anche perché l'uomo, l'essere umano, è un animale sociale, quindi ha bisogno di condividere. Se poi tu condividi un uomo e una donna, servono per portare avanti la specie. Quando io ho scritto il libro Grazie a Dio e Gay, che mi spiace non averlo portato qui oggi, e mi sono documentata un po', noi non siamo fatti solamente di parte razionale e di parte emotiva. Ci sono tante cose che interferiscono, ci sono le attitudini, la cultura, gli istinto, le emozioni che sono la paura, l'indirizzo, cioè ci sono mille cose. Allora uno non deve confondere quando dicono ma se fosse il mondo fosse tutto omosessuale, allora come va a far andare avanti la specie? È una cazzata colossale, perché il maschile e il femminile servono per portare avanti la specie, ma se si parla di sentimenti, di convivenze, di voler condividere la vita, perché no? Perché no, esatto. No, sono delle riflessioni importanti anche nel mondo animale. C'è appunto un'unione che è destinata a procreare, ma diventano anche sentimenti. Quando i sentimenti o quando le motivazioni ti portano verso qualcuno dello stesso sesso è una cosa che va rispettata e non crea problemi. Tra l'altro, secondo la ricerca scientifica, ultimamente è venuto fuori che i bambini figli di, cioè allevati da coppie omosessuali, non hanno alcun tipo di problema dal punto di vista né sentimentale né cognitivo, e quindi crescono perfettamente. Quello che dà problemi è la mancanza d'amore. Esatto, quello che a me fa ridere è quando hai visto, quando c'è stato il Family Day adesso pochi giorni fa, che c'era credo forse su Sky TG24, sul TG24 c'era la notizia contro le unioni civili e sotto c'era scritto padre appena ucciso, trucidato la moglie e i figli, una roba allucinante. Allora, siccome le famiglie, la famiglia non esiste più, la famiglia tradizionale, dovrebbero esistere dei nuclei dove ci si vuole bene, ci si rispetta, ci si confronta e si porta avanti un progetto di vita. Ecco perché io per esempio sono anche favorevole alle adozioni, alle coppie single e omosessuali, perché il confronto non è diamo un bambino a una coppia etero o diamo un bambino a una coppia adozioni o una coppia omosessuale. Il rapporto è lasciamo un bambino in una realtà drammatica come gli orfanotrofi, che ce ne sono, io li sono andata a vedere personalmente, allucinanti, o lo inseriamo in un nucleo di due persone che gli vorranno bene, lo riscalderanno, gli staranno vicino, lo assisteranno. Questa è la domanda giusta. E poi io, appassionato di spiritualità come sono, oggi mi lascio andare, no? Con queste cose qua voglio ricordare a tutti i cristiani, io sono stato battezzato, sono stato anch'io cristiano, via dicendo, che l'insegnamento principe, il nucleo dell'insegnamento di Cristo è l'amore. Cioè, tu immagina che cosa accadrebbe all'Italia se i nostri parlamentari facessero le cose con amore, cioè voglio dire con un senso, un significato, con qualcosa che vada oltre i loro culi poggiati su quelle sedie, se i poliziotti facessero la stessa cosa, se i magistrati facessero la stessa cosa, se gli insegnanti facessero la stessa cosa. E la stessa cosa è nella famiglia. Quello che è importante è il modo in cui tu ti unisci ad un'altra persona, in cui tu tratti i bambini, e questo modo deve essere pervaso d'amore. Bene, come si dice, abbiamo... No, ma l'amore è una questione anche animale, capisci? Sì, certo, questa sì. è l'altra cuginata, l'amore è un affare umano, e invece non è un affare... No, e invece assolutamente no, è stato dimostrato come gli animali hanno un codice morale, ne parleremo, che come cosa gli animali... che noi non abbiamo. Cosa... Esatto. Come ci siano delle radici biologiche per l'altruismo, come gli animali esprimono amore, affetto, protezione, cura. Come rispettano... E come lo fanno in un modo anche più... come sano di molti esseri umani. Quindi senti, allora posso leggerla io la lettera? Certo, che abbiamo ancora un po' di tempo. C'è una lettera finale che ci richiama appunto a un messaggio d'amore che ci scrive Claudia, bellissima. Scrive: buongiorno, le scrivo sull'onda delle mie emozioni, forse dovrei stare in silenzio, ma ho qualcosa da dire come tante persone purtroppo. Stamattina sulla stampa ho letto l'articolo di un povero cane che viene colpito con 3 colpi di fucile perché abbaiava e vagava solitario per l'isola di Favignana dopo la morte del suo padrone. Mi spiace per gli animalisti che forse pensano che fossi in difesa del povero cane, faccio dell'ironia, ma voglio toccare la ferita profonda di tanta gente italiana, compresa me, che ha chiuso gli occhi di fronte a un dolore come di solito si usa fare quando le cose ci disturbano. Ho immaginato quel cane come se fosse un uomo anziano, nella sua triste realtà di trovarsi senza più un legame affettivo, o come il mendicante che dorme nei sottopassaggi della metro, o come un immigrato che lascia tutto o ha perso tutto, ogni suo punto di riferimento. Ecco, questa nostra società che tutti vogliono, che tutti ambiscono, è fatta di persone che chiudono gli occhi, o peggio ancora, risolve le cose eliminandole e pensando a proteggere il loro piccolo orticello, la loro vita quotidiana così sempre uguale. Ora parlo a te che hai sparato. Vorrei conoscerti. Se un giorno ti troverai solo a vagare per le strade e nessuno ti dirà una parola buona, o che nel dolore di aver perso la persona amata pensi che nessuno la potrà sostituire e urli alla luna perché? Perché? Vorrei incontrarti quel giorno e darti una mano, un sorriso, un abbraccio, prendermi cura di te, ascoltarti e dirti che non sei solo. Purtroppo tu puoi parlare, esprimere dei concetti, ma Leo no. È un cane lui, può solo abbaiare per esprimere il suo dolore. Claudia. Bene, Claudia, questo sì che è un messaggio d'amore, no? Hai fatto questo, io invece di renderti la stessa moneta ti do una mano. Questo è, sai, quando Cristo diceva amate i vostri nemici, non vedo molto amore ultimamente. Bene, ciao a tutti da Rosita Celentano, Angelo Vaira, scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it.